Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. Nel bene o nel male, l'orizzonte per quanto concerne il fotovoltaico si è schiarito, nel senso che una volta firmato il decreto che riordina gli incentivi al fotovoltaico, cosa che è successa lo scorso 5 maggio, perlomeno la situazione è nota e si può fare qualche considerazione su che tipo di orientamenti vengono fuori dal nuovo sistema di incentivazione. Allora, dovere di cronaca vuole che io riferisca almeno alcuni dei commenti seguiti alla firma del decreto. Per esempio, Assosolare esprime grande perplessità, dice che il governo ha fatto delle concessioni che insomma sono un aperitivo, ma che la sostanza delle cose non è cambiata e soprattutto c'è un problema con i cosiddetti diritti acquisiti. Anche Aper ce l'ha su con questa questione dei diritti acquisiti. Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del fatto che sono state cambiate le regole del gioco, sono state cambiate mentre il gioco era in corso, e quindi ovviamente chi aveva fatto degli investimenti o dei progetti si vede cambiare le condizioni. Il GIF invece è molto contento, dice finalmente è stato firmato il decreto che permette all'intero comparto di ripartire e pianificare i prossimi 5 anni di attività. Insomma, come al solito le associazioni sono d'accordo fra loro. Tutto ciò e anche tutte le critiche, però ce ne sono altre, per esempio legate all'esistenza di certi registri a cui bisogna iscriversi, ai tetti di incentivazione e così via. Tutto ciò, tutte le critiche però riguardano i grandi impianti. Per i piccoli, e piccoli come vedremo neanche tanto, invece è tutta un'altra storia, ed è proprio dei piccoli impianti che vogliamo occuparci questa sera con Joël Zunato, responsabile nazionale del fotovoltaico di Aper, che è l'associazione produttori energie rinnovabili. Buonasera Joël. Buonasera Maurizio e buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora Joël, noi ci conosciamo bene, sì. Ci diamo del tu. Domanda 1, allora, secca: per chi ha un tetto vale o no ancora la pena di metterci sopra un impianto fotovoltaico? Allora, sicuramente sì. Ok, questo lo possiamo dare per assodato. Allora, proviamo a spiegare che cosa succederà da qui in avanti per chi ha un tetto e ci vuole mettere un impianto fotovoltaico, come funzioneranno da qui in avanti gli incentivi. Allora, se quindi ci concentriamo soltanto sui piccoli impianti... Tanto diciamo quindi, subito piccolo, che cosa si intende con il nuovo decreto. Diciamo, impianti su copertura sotto il megawatt di potenza. Quindi piccolo si fa per dire... Piccolo si fa per dire, ovviamente bisogna tenere conto anche di clienti che non siano soltanto residenziali, possono essere imprese per esempio. Imprese per esempio, ecco, centri commerciali. A parte questo abbiamo 1 megawatt su copertura e 200 kilowatt per altri impianti non su copertura che comunque vanno in scambio sul posto. Quindi scambio sul posto è quel regime per cui uno si consuma almeno in parte l'energia che produce. Esatto. Senza entrare adesso nei dettagli. Quindi questo è il piccolo. Quali sono le tappe? Come cambierà da qui in avanti? Il sistema è abbastanza complicato per i grandi, mentre per i piccoli c'è da dire che la situazione andrà avanti come più o meno si conosce dal terzo conto energia. In che senso? Nel senso che cambiano alcuni dettagli, ma l'impianto di incentivazione non cambierà. Ci saranno delle riduzioni sulle tariffe, quindi sì. Rispetto alle tariffe previste dal terzo conto energia, quello approvato l'agosto scorso e che è in vigore attualmente, che durerà fino a giugno, fine maggio, ecco, questo terzo conto energia verrà sostituito dal quarto. Sì. E prevederà, per quantomeno il primo impatto più rilevante per i piccoli impianti, è sicuramente la riduzione delle tariffe incentivanti. Che è di quanto, più o meno? Di quanto stiamo parlando? Sono riduzioni mensili. Sì. Che variano in funzione della taglia e della tipologia impiantistica. Sì. Del nostro impianto. Per dare dei numeri medi stiamo parlando di riduzioni mensili, per esempio a giugno un -2,4%, che in luglio diventa un -5,6, ad agosto un -9,4, a settembre un -12,6, ad ottobre un -17, insomma arriviamo a dicembre con un -30%. D'accordo, riduzione media. Che non è una cosa enorme se consideriamo che anche il costo del fotovoltaico è diminuito. Sì, esatto. Più o meno le due cose sono comparabili? Allora, diciamo di sì, gli operatori ritengono che sono prezzi che non uccideranno il mercato. Benissimo. Ecco. quindi ci sarà un adeguamento del mercato. Ripeto, stiamo parlando dei piccoli impianti, quindi di una realtà particolare, adesso non parliamo invece delle grosse problematiche che restano aperte per quanto riguarda... Infatti l'abbiamo detto subito, non ce ne occupiamo questa sera. Non ce ne occupiamo, va bene. Anche un po' per noia, diciamo la verità. Allora... Allora, insomma, possiamo concludere che per privati cittadini e imprese il fotovoltaico è ancora un investimento attrattivo. È ancora un investimento attrattivo, ci sono appunto alcuni cambiamenti, però nella sostanza si può continuare, diciamo, a orientarsi su questo investimento se se ne hanno, insomma, se si ha la disponibilità di superficie e di denari necessari. Non so se possiamo aggiungere qualche informazione, ci sono alcuni extra incentivi che vengono assegnati in circostanze particolari, possiamo almeno citarle? Ma io ne citerei uno su tutti, che è un premio del 10% per gli impianti che utilizzano tecnologie prodotta realizzata all'interno dell'Unione Europea, e quindi diciamo il soggetto privato che vuole investire nel settore potrebbe avere anche questo occhio di riguardo. E poi possiamo aggiungere sicuramente che per chi installa l'impianto fotovoltaico e assieme fa un'operazione di efficientamento energetico l'incentivo è più alto, ci sono gli incentivi più alti anche per chi elimina le coperture in amianto, in Ethernet, per mettere insieme la bonifica, diciamo, di siti inquinati. Abbiamo 5 centesimi a kilowattora per l'amianto, sono tutti elementi già presenti nel terzo conto energia che sono stati riproposti anche nel quarto. Va bene, grazie allora Joel Zunato. Prego, buona serata a tutti. Bene, per stasera è tutto, domani parliamo di una sorta di gara europea per la famiglia più energeticamente efficiente. Buona serata.